sono varie casistiche, forse quella più interessante sono i programmi che vengono costruiti da noi insieme a una serie di professionisti o semiprofessionisti che lavorano con noi tramite internet, quindi soprattutto per quanto riguarda le inchieste che facciamo sulle tematiche italiane c'è sempre una copartecipazione nella produzione delle inchieste tra utenti della rete che ci propongono le loro storie, le loro idee, che molto spesso poi sono storie del territorio dove vivono, quindi storie che possono testimoniare direttamente con un'esperienza lunga e molto dettagliata, unita all'esperienza del nostro team interno che poi serve, diciamo, a verificare che tutto sia consistente da un punto di vista di informazione e poi a raffinare il prodotto per renderlo un prodotto televisivo. Certo, infatti devo dire che anche moltissimi servizi, ora seguo anche molto Current, sono straordinari da molti punti di vista e spesso anche nel racconto. L'idea di questa televisione è di avere un pubblico, diciamo, viene chiamato young adults in inglese, cioè di giovani adulti, quelli che sono gli universitari fondamentalmente, fino ai 35 anni.